Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buon lunedì a tutti, bentrovati con Salva Danaio ancora una volta con voi. È un mese oggi a Natale e molti, crisi permettendo, stanno magari organizzando le vacanze natalizie, visti i tempi che corrono. Però risparmiare è un imperativo categorico. Allora oggi sul Sole 24 Ore in edicola, insieme al Sole 24 Ore in edicola, trovate una guida low cost di qualità che riguarda gli aerei, i voli aerei, tema anche della puntata di Salva Danaio di oggi. Forse si tratta della tipologia di low cost più conosciuta, un modo di viaggiare qualche anno fa impensabile in Italia, al quale ci siamo abituati in fretta e al quale ora difficilmente vogliamo rinunciare. C'è anche però chi lamenta servizi più bassi, orari improbabili, scali lontani dalle città che comportano anche, a fronte di un risparmio del biglietto aereo, magari maggiori costi da affrontare per il collegamento scalo centro cittadino. Qualunque sia la vostra esperienza o la vostra opinione, potete chiamarci. Il numero è sempre 800 24 00 24, oppure per mandare degli sms 349 238 6666. Non siamo soli in tutto questo, ci fanno compagnia oggi degli ospiti che tra poco vado a presentare, ma prima diamo uno sguardo ai listini finanziari in Europa. Quest'oggi positivi, come dicevamo anche durante il GR, sulla scia di questa notizia che arriva da oltreoceano di Citigroup. Il governo americano ha stanziato oltre 300 miliardi di dollari per salvare questo colosso bancario. Quindi i listini, i bancari guidano i listini che invece trascurano il dato macroeconomico dalla Germania, pur importante. Un calo per l'indice IFO a novembre, l'indice che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi, superiore al calo che avevano stimato gli analisti. Nonostante questo, proprio Francoforte guadagna quasi il 3%, Parigi in rialzo del 3,59%, Londra del 3,87%. Leggermente peggio fa Piazza Affari, con il MIBTEL in rialzo del 2,36%, il MIB 30 del 2,55%. 58%. Anche a Milano bene un po' tutte le banche, alcune quotano l'ex dividendo, non solo le banche, ma segnaliamo Tenaris, Mediobanca, Atlantia, Enel, STM, Mediolanum e Terna. E poi gli altri temi di borsa sono senz'altro Tenaris, che sale di oltre l'11%. Il titolo è stato fra i più venduti la scorsa settimana sulla scia del ribasso del prezzo del petrolio. Nonostante i rialzi di oggi, il titolo registra una flessione di oltre il 15% rispetto alle quotazioni di lunedì scorso. E poi bene anche Prismian, più 8,45%, Mediolanum più 7,95%, Mediobanca più 7,78%. Recupera terreno oggi la Fiat, che riaggancia quota 5 euro. Bene anche Atlantia dopo il meno 12% di venerdì sulla possibilità che nel pacchetto di misure da approvare nel Consiglio dei Ministri di mercoledì il governo stia anche valutando di inserire il congelamento delle tariffe di autostrade e ferrovie. E poi fra i negativi invece Snam Rete Gas, meno 0,18%, intorno alla parità invece Fondiaria Sai, ma insomma il listino è pieno di segni più quest'oggi. Euro rispetto al dollaro a più 1,25%. Torniamo invece a parlare di voli low cost, perché appunto, come dicevamo, c'è questa guida che esce oggi con il Sole 24 Ore. Voli aerei quindi a basso costo, senza però rinunciare a un buon servizio. Valeria Coffaro e Gaia Romani hanno riassunto tutti i punti della questione in questa scheda. I voli low cost sono parte della vita quotidiana di moltissime persone da circa un decennio. Negli ultimi 5 anni in particolare, la crescita delle compagnie aeree a basso costo è stata rapidissima, tanto che oggi quasi un volo su 3 appartiene a questa categoria. Se il concetto alla base di questo fenomeno, cioè che si può volare a basso costo rinunciando ad alcune comodità, è stato ampiamente assimilato dai consumatori, sono molte le fonti di disorientamento. Sempre più spesso, infatti, ci sono compagnie tradizionali che si comportano in maniera simile alle low cost, mentre sempre più aerolinee economiche abbandonano il modello puro e iniziale per lasciare spazio a maggiori servizi. Chi vuole viaggiare low cost, inoltre, oggi rischia di perdersi nelle trappole dei supplementi e dei costi extra, che hanno via via riguardato una serie di servizi in precedenza considerati inclusi nel prezzo. Un esempio su tutti, il supplemento richiesto per l'imbarco di un solo bagaglio da stiva. Per risparmiare, quindi, sono molte le cose a cui fare attenzione. Quando prenotare, in quali scali atterrare, come regolarsi con i bagagli e i cambi di prenotazione, come acquistare su internet e tramite call center, quando conviene ricorrere alle agenzie di viaggio online e, infine, quando preferire alle low cost i voli di linea e quelli charter. 800 24 0024 per chiamarci se volete raccontarci la vostra esperienza oppure fare delle domande ai nostri ospiti, 349 238 6666 per mandare un sms. E fra i nostri ospiti, in primis Fabrizio Patti, giornalista del Sole 24 Ore e uno dei curatori della guida nonché anche della nostra scheda, mi dicono dalla redazione. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo Fabio Cannavale, fondatore di Vola Gratis, agenzia viaggio online, che sulla quale si possono comparare i prezzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto. E poi l'avvocato Carmelo Calì, responsabile del trasporto Confconsumatori, rappresentante del Comitato Tutela Diritti del Passeggero presso l'ENAC. Buongiorno. Buongiorno a voi, gli ascoltatori. Benvenuti a tutti voi. Iniziamo dando la precedenza al collega che è anche curatore della guida per cercare di capire, ma quanti sono questi italiani che volano low cost? Sono cresciuti in questi anni? Sono sicuramente cresciuti. Nel 2007, secondo le stime di un centro di ricerca che si chiama CRIET, hanno già rappresentato il 30% dei passeggeri totali ed è un numero che va crescendo. Nel 2002 erano solo il 5-6%, sono andati sempre via via aumentando e anche in tempi di crisi, o forse a maggior ragione perché siamo in tempi di difficoltà economiche, continuano a crescere i passeggeri su questi scali. Non solo crescono, ma anche cambiano come composizione sociale. Prima si associava al volo low cost un passeggero molto giovane, di solito studente, e che aveva scarsa disponibilità economica e che quindi magari andava a dormire poi nelle sistemazioni anche alberghiere più economiche come i bed and breakfast. Però da quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista del Touring Club italiano, in realtà questi luoghi comuni stanno un po' venendo a cadere, perché è vero che ancora nel 50% dei casi i passeggeri hanno meno di 35 anni, ma in realtà la loro capacità di spesa non è detto che sia così bassa, è solo il 10% inferiore a quella dei viaggiatori tradizionali. E insomma, la conclusione a cui arriva il Touring Club è che ormai è entrata nella cultura delle persone l'idea di viaggiare a basso costo per poter magari spendere in modo diverso i propri soldi andando magari in albergo, e si sviluppano anche viaggi di lavoro che stanno prendendo piede utilizzando questi mezzi. Quindi sempre più non solo per turismo ma anche un modo per le aziende di risparmiare. Fabrizio Cannavale, fondatore di Vola Gratis, dal suo osservatorio quest'anno che cosa cambia per chi viaggia? I prezzi sono un po' aumentati, ma mi sembra che il numero dei viaggiatori rimanga uguale. Sì, intanto mi chiamo Fabio Cannavale. Scusi, Fabrizio, il nostro Fabrizio Patti, Fabio, sì. I prezzi sono un po' aumentati, in realtà è una questione stagionale collegata al petrolio, quindi i prezzi erano aumentati, in realtà in questo momento i prezzi sono molto competitivi. Quindi quello che noi stiamo vedendo, per esempio in questi ultimi mesi, ottobre-novembre, è che c'è un aumento della quota dei voli low cost, sicuramente dettata anche dal fatto che le compagnie low cost, che hanno un pricing più flessibile, hanno abbassato i prezzi prima e quindi stanno guadagnando ulteriormente quote di mercato. Avvocato Calì, lei in qualche maniera rappresenta i consumatori, ci sono gli stessi diritti perché spesso per chi vola low cost, perché spesso questa è una remora nell'affrontare un viaggio low cost, quando si annulla un viaggio, quando c'è un ritardo, uno smarrimento di bagaglio? Sì, no, su questo fa bene a porre la domanda, perché è un luogo comune che spesso trae in inganno i passeggeri. Bisogna rassicurarli perché i passeggeri che volano su low cost, su aerei low cost, hanno gli stessi diritti dei passeggeri che volano negli aerei, noi diciamo, normali, tra virgolette. Quindi da questo punto di vista possono esercitare tutti quei diritti che vengono riconosciuti loro sostanzialmente dal regolamento comunitario 261/2004 che riguarda overbooking, cancellazione voli, ritardi, e quelli relativi invece previsti dalla Convenzione di Montreal che riguardano lo smarrimento oppure ritardata consegna o distruzione del bagaglio. Anche tutti questi diritti possono essere esercitati da chi vola low cost, quindi nessuna preoccupazione. L'importante è fare attenzione alle varie procedure da seguire, per esempio in caso di smarrimento di bagagli fare subito la denuncia in aeroporto e spedire una raccomandata alla compagnia aerea entro 21 giorni, perché spesso le compagnie aeree eccepiscono che non essendo pervenuta entro 21 giorni la raccomandata, per come prevede la Convenzione di Montreal, purtroppo spesso si trincerano dietro questo aspetto formale per non dare il giusto risarcimento ai passeggeri. Quindi attenzione alla procedura e ai diritti rispettano. Fabrizio Patti, si parla di low cost, quindi prezzo basso, poi si parla anche di low fare, di charter. Che differenza c'è? Perché i consumatori sono un po' forse perplessi di fronte a dei termini che sono inglesi e che sembrano sinonimi ma non sono sinonimi. C'è anche un po' di confusione. Diciamo la versione più comune intende con compagnie low cost quelle che hanno un modello e anche una struttura di costi tipico delle compagnie a basso costo, che quindi prediligono degli scali secondari, non offrono servizi aggiuntivi e si comportano evitando gli intermediari come le agenzie di viaggio. Poi man mano con il passare degli anni, a causa della sempre crescente forza e del sempre maggiore successo delle compagnie low cost, le compagnie tradizionali hanno preso delle contromisure e sono successe in particolare due cose. Da una parte ci sono state compagnie che hanno mutato il loro modello di business cambiando il modo di fissare le tariffe e anche adeguando il livello di servizi, rendendole più simili alle low cost. Tra queste c'è una storica compagnia irlandese che è la Aer Lingus, che dopo aver battagliato per anni con Ryanair in Irlanda ha dovuto cambiare modello di business, e addirittura poi una quota rilevante di questa compagnia è stata comprata dalla stessa Ryanair. In Italia si sta comportando in questo modo Meridiana, che ha, come anche spieghiamo nella nostra guida, ha cambiato una serie di impostazioni specialmente per quel che riguarda la fissazione del prezzo. E anche tra le compagnie tradizionali, soprattutto in questo è stata antesignana la British Airways, stanno cambiando, stanno venendo incontro alle esigenze dei consumatori in questo senso. Fabio Cannavale, come possono mantenere prezzi così stracciati? Si parla di no frills, quindi niente passo a bordo per lo più, nessuna prenotazione del posto assegnato, ma alcuni, soprattutto clienti tradizionali, temono che non si voli a parità di sicurezza. Fabio Cannavale, l'abbiamo ancora in linea? Sì, mi dicono di sì. No, probabilmente invece la linea è caduta, cercheremo di ripristinarla al più presto. Fabrizio, giro a te la domanda, perché è una giustamente dei timori dei passeggeri, che non si voli a parità di sicurezza pagando di meno. Ma questo in realtà è qualcosa che non è giusto ritenere corretto. Corretto. Ci sono state delle preoccupazioni, soprattutto quest'estate, a seguito dell'incidente che ha coinvolto la compagnia low cost Spanair, che è costata la vita a centinaia di persone, e dopo questo incidente ci sono stati anche dei problemi su altri voli, quindi si era un po' diffusa una sorta di psicosi. In realtà, come i passeggeri hanno gli stessi diritti, allo stesso modo le regole di sicurezza che sono applicate a queste compagnie sono le stesse che vigono per le compagnie tradizionali. Bisogna anche dire che compagnie aeree come Ryanair hanno degli aerei che sono più nuovi generalmente rispetto alle compagnie tradizionali e quindi si pensa che siano anche più sicuri. Bisogna anche dire, credo, che ci sono anche dei sospetti di aiuti di Stato per quanto riguarda queste compagnie. Noi come Radio 24 ce ne eravamo occupati qualche tempo fa, in particolare per l'aeroporto belga, è così? Ci sono aspetti che magari lascerei anche a persone più esperte di me commentare. Quello che si può dire è che in passato c'è stata una sanzione della Commissione Europea riguardante un aeroporto in Belgio che è Bruxelles-Charleroi, perché il governo regionale Vallone aveva aiutato la compagnia Ryanair a insediarsi nello scalo. Questo è del tutto anche, se vogliamo, logico da un punto di vista di mercato, perché Ryanair ha permesso a questo scalo di diventare da un aeroporto piccolissimo un aeroporto che oggi ha più di 2 milioni di passeggeri all'anno. Però la Commissione Europea ha voluto comunque mettere un po' ordine in questa vicenda e da una parte ha permesso che negli scali periferici ci fosse un periodo transitorio in cui questi aiuti sono anche concessi e giustificati. Dall'altra parte è intervenuta con alcuni provvedimenti che sono volti a garantire una maggiore trasparenza. La prima è un regolamento che è entrato in vigore lo scorso 1 novembre e che da una parte interviene per regolare gli aiuti. Gli aiuti di Stato? Esatto. E c'è anche stata una direttiva votata alla fine di ottobre che obbliga tutti gli aeroporti a dichiarare quelle che sono le proprie tariffe aeroportuali, che finora erano poco trasparenti, e obbliga anche a dire quali sono gli introiti totali derivanti da questi tasse aeroportuali. Abbiamo ripristinato il collegamento con Fabio Cannavale, fondatore di Vola Gratis. Cannavale, stavamo parlando del come riescono queste compagnie a mantenere prezzi così stracciati. Adesso però vorrei dare la linea a un ascoltatore, così magari lei può rispondere. Matteo da Parma, buongiorno, grazie per l'attesa. Sì, buongiorno, io vivo a Parma, ho degli amici a Parigi e Parigi non è Londra intanto come collegamenti. Vivendo a Parma posso concentrarmi sugli aeroporti di Bologna o di Milano. Generalmente quando voglio andare a trovare i miei amici, non dico dall'oggi per il domani, ma quasi. E quindi ho effettuato molte simulazioni con varie compagnie, avendo pochi giorni a disposizione. È emerso secondo me che se ci si trova in extremis conviene veramente valutare le compagnie tradizionali. Grazie Matteo. Fabio Cannavale, vuole rispondere lei? Sì, è assolutamente corretto. Io intanto quello che volevo dire collegandomi a prima è che per il consumatore non c'è nessuna distinzione, anche secondo me ormai non ci sono grosse distinzioni tra diverse compagnie. Proprio per questo alla fin fine il motivo del successo del nostro sito è che noi mettiamo tutti i voli e li trattiamo nello stesso modo e diamo lo stesso servizio per qualsiasi volo uno voglia comprare, perché alla fin fine, come giustamente dice il signore, l'importante è per la gente muoversi, che poi dopo prenda EasyJet o Alitalia non gli fa nessuna differenza. E ad oggi come oggi, alla fin fine i servizi offerti, soprattutto sulle tratte europee, sono esattamente identici, perché anche nelle compagnie tradizionali, per esempio il catering che fino a qualche anno fa veniva offerto, in questo momento non c'è più. E quindi alla fin fine il servizio è uguale, il prezzo è simile, bisogna vedere in ogni momento cos'è il volo più conveniente. Rispondendo al signore, i voli low cost, per come sono strutturati, sono molto convenienti se prenotati in anticipo. Mediamente con 30 giorni d'anticipo si hanno dei prezzi veramente buoni, mentre quando si va sotto data molte volte sono più convenienti le compagnie tradizionali, proprio per il motivo è proprio la loro inefficienza, perché vendono dei prezzi in quel momento effettivamente troppo economici, perché non si sono resi conto che sono rimasti ormai pochi posti e quindi le compagnie low cost in quel momento li fanno pagare i cari, cioè sono più sempre in linea sulla legge della domanda e dell'offerta. Bentornati a Salvadanaio da Valentina Furlanetto. Oggi parliamo di voli low cost con il vostro contributo all'800240024 e il contributo di alcuni ospiti che abbiamo oggi con noi. Ma diamo subito la voce a Margherita dalla provincia di Padova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Niente, io volevo dare un attimo il mio contributo. Viaggio tantissimo in aereo per lavoro sempre e quindi da molti anni mi capita anche molto spesso di prendere voli low cost. Una ragione per cui si prendono è naturalmente il costo, perché rapportato ai voli di linea, molto spesso, specialmente in giornata, se lei fa un'andata e ritorno con un volo di linea in giornata, il prezzo è esorbitante. Io non ho mai capito questa differenza, nel senso, nel volo low cost io riesco a comprare un biglietto solo di andata o un biglietto di andata e ritorno e mi viene esattamente lo stesso prezzo che lo faccia per oggi o per domani magari. Se invece lo faccio con un volo di linea, le differenze sono enormi. Per cui do ragione al signore prima di Parma che diceva che la differenza non è grandissima a prendere un volo di linea, sempre se lei mi ci mette in mezzo qualche giorno di distanza. Non capisco perché i voli di linea non riescano ad essere competitivi in questa situazione, per cui infatti adesso si trova, come dicevate voi prima, in giro per i voli low cost moltissime persone che indubbiamente sono in giro per affari. Grazie, grazie Margherita. Prego. Fabio Cannavale. Ha capito questa questione che è sollevata dall'ascoltatrice? Assolutamente. Allora, è effettivamente vero quello che dice l'ascoltatrice, ma sta cambiando. Le compagnie aeree, proprio per vincolare, diciamo, i passeggeri, hanno sempre cercato di vendere i prezzi andata e ritorno, anche perché un tempo, se non c'era di mezzo il sabato sera, facevano dei prezzi molto alti proprio per cercare di far pagare tanto alla clientela business, cioè chi andava durante la settimana senza dover stare sabato sera. E quindi c'era un modo di pricing chiamato Sunday Rule che faceva sì che i prezzi andata e ritorno senza domenica costassero tantissimo. In questo momento le cose, grazie alla competizione delle compagnie low cost, stanno cambiando. La British Airways, per esempio, e la Iberia hanno un pricing in molte tratte dove c'è competizione con low cost fatto per rotta, quindi un prezzo molto simile a quello delle compagnie low cost anche come struttura. Sicuramente per gli utenti la massima facilità è poter avere i prezzi fatti soltanto per tratta, anche perché molte volte può convenire andare con una compagnia e tornare con un'altra, che infatti è un servizio che noi abbiamo introdotto da poco sul nostro sito, che è molto orientato a questa clientela. Io mi rivolgevo anche a quello che diceva, che la clientela low cost è più giovane e di reddito più basso. Nel nostro caso non è così, abbiamo una clientela di età matura e di reddito alto, perché molte volte chi prende i voli low cost sono anche le persone che comunque viaggiano, magari vanno a farsi un weekend via o viaggiano molto per lavoro, quindi è una clientela tendenzialmente matura e consapevole soprattutto. Sì, lo diceva anche Fabrizio Patti, che ormai si usano anche per il lavoro, lo confermava l'ascoltatrice Margherita. Infatti la cosa che distingue poi soprattutto chi fa acquisti online è il grado di cultura più che il grado di reddito, cioè le persone a grado di cultura elevato che posseggono una carta di credito sono abituati a utilizzare cose innovative, quindi voli low cost e comprarli poi direttamente online. E quindi quello che sarà sempre di più nel futuro è che, visto questa cosa a cui si stanno adeguando tutte le compagnie, molte volte si potrà andare, che so io, a Londra o a Parigi, come diceva il signore, volando magari all'andata con Alitalia e tornando con una compagnia low cost, perché magari a quel momento offre un prezzo e soprattutto una coincidenza con orari migliori. Quindi il poter mischiare dà una maggiore flessibilità all'utente finale. Avvocato Calì, la clientela quindi ha una maggiore consapevolezza, la clientela che si rivolge a questo tipo di vettori? Sì, diciamo parzialmente, almeno per quelli che sono i reclami che noi riceviamo. È vero quello che si diceva poc'anzi, che c'è un grado di consapevolezza da parte di un certo tipo di clientela, appunto abituato ad andare su internet, ad acquistare con carte di credito eccetera, però è anche vero che c'è un doppio fenomeno, che nonostante sia per questo tipo di clientela sia per la clientela che magari acquistano cost magari rivolgendosi alle agenzie eccetera, noi vediamo che per la prima spesso adesso diciamo ci sono state tutta una serie di restrizioni, ma prima c'erano tutta una serie di ingannevolezze nell'acquisto dei biglietti, cioè spesso si pubblicizzava un determinato prezzo che poi andando avanti nella emissione si vedeva che magari andava a lievitare. Questo magari adesso è scomparso tutta una serie di interventi anche da parte dell'Unione, però vediamo che spesso quello che crea abbastanza disservizi e che quando magari si acquista tutta una serie o il biglietto magari non vengono date tutta una serie di informazioni al passeggero, per cui una mancata informazione in questa fase può determinare un costo maggiore. Per esempio spesso vi sono anche la scelta o meno di stipulare una polizza assicurativa, che spesso è anche inutile, fa determinare che molti passeggeri hanno erroneamente acquistato l'assicurazione perché magari hanno cliccato erroneamente oppure si sono ritrovati la scelta dell'assicurazione e non si sono resi conto che dovevano eliminarla. Questa è quindi una grave scorrettezza di chi propone il sito in questi termini. Dall'altro punto di vista, chi si affida ad altri per acquistare un biglietto della compagnia low cost, ci rendiamo conto che ancora c'è una carenza informativa. E il classico esempio che sembra superato, che è quello del bagaglio, del peso del bagaglio, su cui le compagnie applicano tutta una serie di costi aggiuntivi e che poi restano a carico dei passeggeri in modo abbastanza pesante, perché magari chi non lo sa si programma in un determinato modo. Ecco, questo tipo di informazione a primo acchito sembrerebbe un'informazione ormai a conoscenza di tutti, invece le segnalazioni che noi abbiamo ci dicono il contrario. Infatti ci dicono che tantissimi cittadini si lamentano che poi arrivati in aeroporto o all'andata direttamente o anche al ritorno, perché magari se torno da un viaggio turistico la valigia può avere un peso maggiore per regali eccetera, si trovano delle sorprese. Allora su questo c'è a nostro avviso una carenza informativa, ripeto, sembrerebbe un'assurdità ma non è vero. E poi c'è anche un'altra questione che bisogna dire in modo chiaro rispetto al prezzo dei biglietti. È vero, condivido che la caratteristica del low cost è quella di un acquisto di biglietti in tempi abbastanza anticipati e quindi chi acquista a ridosso della partenza non può pretendere tra virgolette un prezzo conveniente. Però anche da questo punto di vista le segnalazioni che ci pervengono in questi giorni, stranamente in coincidenza con la crisi dell'Alitalia, ci danno un segnale di un aumento dei prezzi del low cost che arrivano a costare più delle compagnie tradizionali, e questo, ripeto, soprattutto in questi ultimi mesi. Ora non vorrei che rispetto a quella che è la tradizionale rete di vendita e modalità di vendita dei biglietti low cost, questa situazione di crisi possa essere presa a spunto e quindi possa determinare un aumento, perché non è soltanto un problema dei mesi scorsi, noi ancora conviviamo con questa condizione e saremo costretti a convivere ancora, non sappiamo per quanto, non sapendo ancora il destino di Alitalia. Non vorrei che ci fosse da questo punto di vista da parte con Mignolo e Costa un'accelerazione, mi consente l'espressione, sull'aumento dei costi per chi vuole acquistare, perché se lo grazie costa... avvocato sono costretta a interromperla perché altrimenti non diamo spazio agli ascoltatori che sono in linea. Leonardo dalla provincia di Latina. Buongiorno, volevo intervenire per quanto riguardava la sicurezza dei voli low cost. I voli low cost costano di meno perché tra l'altro le compagnie low cost hanno spesso l'abitudine di comprare gli aerei leasing, Air One Docent da questo punto di vista, così come altri vettori tipo Blue Panorama, e quindi hanno la possibilità di risparmiare sulla manutenzione che invece... Lei lavora nel settore? No, ma... ho anche qualche conoscente, indirettamente sì, lavoro, sono un commercialista, ho qualche collegamento di vario tipo, così. Fabrizio Patti, Leonardo sostiene che non investono in sicurezza. Allora, c'è una frase dell'amministratore delegato di Ryanair che diceva: il mio incubo peggiore è un incidente aereo o nostro o di una compagnia low cost. Il problema è che eviterei di fare generalizzazioni in questo settore, perché come ho avuto modo di dire prima ci sono compagnie che hanno invece aerei decisamente nuovi, anche più nuovi delle compagnie tradizionali, e ci sono altri casi in cui invece questo non avviene. Per esempio la compagnia Spanair che ha avuto un incidente aveva un aereo piuttosto vecchio, e anche in questo caso però bisogna stare attenti, perché non è che l'aereo vecchio sia necessariamente meno sicuro, perché se le manutenzioni sono fatte in maniera corretta, come la legge prevede, come i nuovi regolamenti prevedono ancora in maniera più restrittiva, la sicurezza dovrebbe essere garantita. Bentornati a Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Oggi parliamo di low cost per quanto riguarda gli aerei, perché esce oggi con il Sole 24 Ore una guida low cost di qualità, una serie di guide che stanno uscendo con il Sole 24 Ore il lunedì, e oggi si parla proprio di aerei. Abbiamo alcuni ascoltatori in attesa all'800240024. Roberto da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, premesso che l'esperienza che abbiamo avuto io e mia moglie in questi anni di voli low cost è molto positiva, nel senso che abbiamo fatto diversi viaggi internazionali e tutti con dei buoni contenimenti dei costi, avevo un quesito, nel senso che l'anno scorso, a luglio, è fallita una compagnia, la Oasi Hong Kong Airlines, e praticamente ha determinato il fatto che abbiamo dovuto prenotare un volo con la British Airways, per cui non abbiamo ancora ricevuto rimborso di 480 euro. La domanda è, io ho avuto modo di verificare che secondo la giurisprudenza inglese i clienti che avevano avuto il volo prenotato in Inghilterra hanno ottenuto rimborso anche dalle compagnie, dalle carte di credito, in quanto secondo la giurisprudenza inglese sono ritenute coobbligate alla compagnia. Mi chiedevo se poteva essere anche il caso in Italia, visto che probabilmente, quasi sicuramente, non riusciremo ad ottenere rimborso dalla Oasis Airline, perché ci sono arrivate comunicazioni che... Roberto, grazie, grazie. Le faccio rispondere dall'avvocato Calì. Sì, se non ho capito lì che si sentiva basso il tono, c'è un problema di rimborso di acquisti da parte della compagnia, sì, come anche per l'Italia. Lì il problema è abbastanza delicato, nel senso che diciamo il passeggero rischia di non avere rimborsata la somma, perché l'unico diritto che potrebbe esercitare da questo punto di vista è chiedere, presentare l'istanza di ammissione alla procedura di Alitalia, e quindi chiedere di poter avere rimborsata da questa procedura la somma. È cosa abbastanza delicata, perché quelle che sono le notizie che abbiamo sentito anche in questi giorni, e per quello che è il passivo di Alitalia e la possibilità di recupero del credito, quindi molti creditori non potranno essere soddisfatti. Tra questi purtroppo ci saranno i passeggeri, infatti una questione, e quindi diciamo bisogna fare attenzione ad acquistare in questo momento, perché potrebbe il passeggero ritrovarsi in una situazione di non avere rimborsate le somme che ha corrisposto per il biglietto. E tra l'altro segnaliamo che a Palermo, allo scalo di Palermo, ci sono i check-in bloccati per proprio una protesta dei dipendenti di Alitalia. Prosegue dunque la mobilitazione contro il declassamento dello scalo da parte di CAI, la riduzione dell'organico. Fabrizio Patti, si parla continuamente di trasparenza delle tariffe, è stata regolata dal decreto Bersani, ma le compagnie rispettano questo decreto? Allora, le compagnie rispettano il decreto fino a un certo punto. Allora, il decreto Bersani nel 2007 impose che i prezzi pubblicizzati fossero comprensivi non solo della tariffa base, ma anche delle tasse e degli oneri aggiuntivi. E noi abbiamo fatto la scorsa estate, come Sole 24 Ore, una ricognizione sui siti delle compagnie per vedere se lo rispettassero, e solamente 6 su 38 avevano tutti i parametri perfettamente corrispondenti. Però bisogna anche dire che il regolamento è entrato in vigore lo scorso 1 novembre, a cui accennavo prima, fa sì che questi obblighi siano estesi a tutti gli stati europei, e che quindi anche compagnie che non hanno base in Italia finiranno per rispettare queste disposizioni. Quello ne approfitto anche per aggiungere che la nostra è soprattutto una guida di servizio, al di là delle grandi questioni di cui si può anche a cui si può anche accennare, e all'interno delle schede di servizio che abbiamo riservato a tutte le compagnie ci sono tutte quelle indicazioni sui costi aggiuntivi per il trasporto del bagaglio, del prezzo in caso di eccedenza del peso, e ci sono molte informazioni che poi possono anche riguardare l'aspetto delle assicurazioni a cui si faceva riferimento in precedenza. Una cosa da dire è che le assicurazioni sono sì utili, ma bisogna essere consapevoli che buona parte dei rimborsi sono previsti per legge, anche se non si spunta l'assicurazione sulla schermata del sito internet. E la cosa che abbiamo anche potuto vedere andando a constatare di persona è che in metà dei casi le compagnie spuntano già la voce assicurazione, quindi bisogna stare molto attenti a non andare in automatico. Andrea da Milano, lei voleva proprio parlare di assicurazioni, è così? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sottoscrivo quello che è stato appena detto, perché io acquisto regolarmente via web e recentemente ho acquistato anche 3 voli per Parigi sul sito Tutto Gratis. In effetti anche lì mi sono trovato l'assicurazione già fleggata e nel primo acquisto che ho fatto non me ne sono accorto. E oltretutto sono già anche fleggati i supplementi per quanto riguarda il bagaglio appresso, cosa che non trovo assolutamente corretta. Un'altra osservazione volevo farla a proposito del pagamento tramite carta di credito, per i quali c'è sempre una cospicua richiesta di contributo all'utente. Mi sembra che sia l'unico caso in cui c'è una richiesta di contributo per pagamenti effettuati tramite carta di credito per qualsiasi tipo di bene. Un'ultima osservazione, la mia banca dopo aver fatto gli acquisti mi ha telefonato ripetutamente rischiando di bloccare addirittura la carta, segnalandomi che una grossissima parte di truffe avvengono proprio per l'acquisto di biglietti tramite internet per le varie compagnie, per cui ho fatto questo controllo chiedendomi se effettivamente avevo fatto l'acquisto oppure no. Grazie Andrea. Fabio Cannavale. Perfetto, mi sembra molto il caso di fare alcune precisazioni. Allora, sì. Sui rimborsi, questo è un tema molto importante in Italia. Allora, in Italia, visto che abbiamo una specie di oligopolio delle banche, nessuna banca ha mai detto una regola internazionale della Visa che tutti gli acquisti fatti con carta di credito vengono rimborsati facendo il chargeback, basta che l'utente, se la compagnia fallisce ovviamente, basta che l'utente ne faccia richiesta. Questo è un caso clamoroso che in Italia questa cosa non venga detta. È una regola, come diceva giustamente il signore prima, internazionale della Visa. Quindi chiunque acquista oggi, per esempio, un biglietto all'Italia, basta che l'acquisti con carta di credito, se l'Italia fallisce, verrà rimborsato. Per questa cosa, per esempio, noi abbiamo 3 milioni di euro di garanzia presso Barclays a Londra con cui lavoriamo, perché ovviamente loro dopo verranno a richiedere i soldi a noi o alle compagnie aeree. Tutte le compagnie aeree hanno una garanzia presso i circuiti internazionali per questa cosa. In Italia, visto che poi chi ci smenerebbe sono le grosse banche italiane, questa cosa giustamente quando è fallita il Pigos e Volare Web tendenzialmente non la dicono. Noi ovviamente ci facciamo carico dei clienti e quindi in tutti questi casi noi abbiamo sempre rimborsato tutti i clienti che avevano acquistato tramite di noi. Questo per quello che riguarda i rimborsi in caso di fallimento. Per quello che riguarda l'assicurazione, allora noi consigliamo vivamente ai nostri clienti di fare l'assicurazione, perché sia le tariffe delle compagnie low cost che le tariffe basse delle compagnie di linea non sono rimborsabili in caso di cambiamento di idea da parte dell'utente. Però l'ascoltatore, scusi se la interrompo, l'ascoltatore lamentava che era già inserita l'assicurazione. Sì, infatti questo è un servizio che diamo noi diciamo ti diamo un'assicurazione costa molto poco, tra l'altro molto meno di quanto costa lo stesso prodotto comprando sul sito della compagnia aerea, e noi consigliamo, il 50% delle persone acquistano l'assicurazione, lo spieghiamo chiaramente sul nostro sito perché lo consigliamo, è scritto molto chiaramente, e noi lo consigliamo, quindi consigliarlo vuol dire inserirlo, poi se l'utente vuole può anche toglierlo. Perché lo consigliamo? Perché un conto è se fallisce la compagnia aerea o cambia il volo, dove l'utente ovviamente ha tutti i diritti. Un altro discorso è quando il cliente cambia idea. Allora vedersi perdere magari 100-200 euro perché ha cambiato idea, mentre offrendo un prodotto assicurativo l'utente può assolutamente avere il rimborso nel cambio, nel caso che... La devo interrompere, purtroppo il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto. Grazie comunque per questo aiuto, questo contributo durante la trasmissione a Fabio Cannavale, a Fabrizio Patti, all'avvocato Carmelo Calì, a tutti voi per l'ascolto. In redazione Gaia Romani e Valeria Coffaro, da Valentina Furlanetto è tutto. Salvadanaio torna domani.